Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Città Fujiko, siamo sempre noi di 451 intersezioni, trasmissione che va in onda ogni lunedì alle ore 20 fino alle 21 sulle frequenze di Radio Città Fujiko. Un saluto da Eliseo Scarpa che condurrà questa puntata di questa sera. Ricordiamo anche il nostro blog No Blog per coloro che sono interessati o vogliono farsi male ad ascoltare i brani o riascoltare la trasmissione. È sempre 451 frammenti sonori.noblogs.org. Troverete sia le puntate di 451 intersezioni con la lista degli autori e degli album inseriti nelle trasmissioni e anche le informazioni inerenti alla puntata di 451 frammenti sonori che va in onda sempre mercoledì alle 24 fino alle 2 di notte circa, condotta di regola dal mio compagno amico Max Macchia, dato che la trasmissione gemella collegata ovviamente a 451 intersezioni di questa sera. E noi con l'apertura solita degli Erico, che è la sigla dall'inizio di questa diciamo stagione radiofonica di 451 intersezioni, apriamo un capitolo nuovo, un capitolo musicale nuovo intitolato Industrial and Funk, dentro gli antagonismi musicali degli anni 80. Questo è il primo capitolo, anche perché chiaramente la materia industriale connessa alla black music, in particolare al funk, ma anche alla disco funk che attraversava la musica industriale più avanzata e aperta anche verso la black music degli anni 80, non si può esaurire in un'unica puntata, in un'unica trasmissione. E dunque questo è il primo capitolo, affronteremo alcune formazioni storiche che hanno segnato la musica industriale degli anni 80 e soprattutto hanno contaminato la loro espressione musicale, il loro linguaggio musicale, non soltanto con la black music ma anche con tutta l'onda della new wave newyorkese che ha attraversato la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, soprattutto negli Stati Uniti, ma poi è emigrata anche questa tendenza, questa ricerca musicale anche in Europa. E aprendo questo capitolo della musica industriale che abbiamo diciamo toccato lateralmente in alcune puntate di 451 intersezioni, ma stasera proprio andiamo dentro la materia industriale, questo fenomeno musicale estremamente legato anche all'antagonismo politico del fine anni 70, inizio anni 80, ma poi ha proseguito per tutti gli anni 80. In realtà ci sono state anche degli strascichi tra gli anni 90 e gli anni 0. Abbiamo fatto in passato all'interno di 451 frammenti sonori anche una puntata speciale cercando di declinare il discorso industriale negli anni 0, anche se sicuramente è molto difficile. La musica industriale ha caratterizzato molto quel periodo storico che è andato dalla fine degli anni 70 all'inizio degli anni 80, alla fine di tutto l'ottimismo legato al prog, a certe musiche che comunque uscivano dal periodo degli anni 60, più psichedelico, più lisergico, ma anche più propositivo e ottimistico rispetto al futuro. L'industrial entra pienamente dentro la crisi generale proprio dell'industria capitalistica, con la chiusura di fabbriche, con lo smantellamento di stati sociali, con l'avvento della Thatcher in Inghilterra, collegato ovviamente anche al movimento punk che ha attraversato sempre la fine degli anni 70 e gli anni 80 l'Europa e gli Stati Uniti d'America. Tutto questo calderone, in questo calderone incredibile, è uscita una delle formazioni più importanti della musica industriale, che ha avuto fortissime contaminazioni e un linguaggio sempre più articolato e aperto alla musica black e al funk in particolare. Parliamo di una formazione fondamentale come Cabaret Voltaire, che ha segnato la musica industriale, passata spesso ovviamente a 451 frammenti sonori. Formazione nata in realtà nel 1973, ha fatto uscire le prime sperimentazioni estremamente ricercate dei primi anni 70, che sono state poi ripubblicate molti anni dopo, ma diciamo a livello di esordio ufficiale è partita proprio nella fine degli anni 70 con i primi lavori, i primi dischi, e con la chiara e manifesta, insieme ad esempio a un'altra formazione storica come The Pop Group, di provocare, di far emergere attraverso questi suoni alienanti e anche molto ossessivi ed inquietanti tutto l'aspetto devastante di quello che si viveva a Sheffield in Inghilterra, con appunto una città costruita sulle industrie che, entrando in crisi, hanno portato disoccupazione di massa e distruzione di tutta una serie di garanzie di stati sociali, oltre alla devastazione ambientale e ovviamente all'inquinamento collegato. Cabaret Voltaire, dunque, che possiamo insomma dare come qualche informazione per raccontare, per coloro che non lo conoscessero, questo progetto e questa formazione musicale, anche se molto poco quello che vi sto dicendo. In realtà bisognerebbe veramente fare e raccontare una sorta di romanzo della storia del Cabaret Voltaire, perché sono state una formazione assolutamente seminale per la musica sperimentale, non solo dagli anni 80 in poi, e oltretutto hanno avuto una storia anche molto travagliata e connessa anche a tutta una serie di dinamiche politiche legate all'antagonismo politico-sociale che ha attraversato quegli anni, a cui noi siamo ancora molto legati, essendo un ambito libertario, antagonista ovviamente legato a un'idea comunista della società. E Cabaret Voltaire, che aprirà questo percorso di stasera, Industrial and Funk, dentro l'antagonismo musicale degli anni 80, dal disco Drinking Gasoline del 1985, un brano in particolare che può riassumere molto bene questa versatilità musicale, questa ricerca e questa sperimentazione dei Cabaret Voltaire, un industrial che appunto è estremamente connesso anche all'aspetto funk, al linguaggio nero che ha attraversato parte dei progetti della musica industriale in generale, del panorama dell'industrial in generale. Partiamo dunque con Cabaret Voltaire, Drinking Gasoline, e ovviamente, come dico al solito, buon ascolto. We'll be right back.

abbiamo mixato i grandi cabaret Voltaire da Drinking Gasoline, uscito nel 1985, con un'altra formazione industrial di quegli anni, gli Sleep Chamber, dal album Music for Mannequins, che in realtà è uscito in musicassetta nel 1984. Un lavoro sicuramente importante nella scena della musica industriale degli anni 80, una formazione che si è mossa fin dall'inizio su terreni estremamente sperimentali, di ricerca assoluta dentro la scena industrial. Nato il progetto dall'idea di John Zewis nel 1980 e ha proseguito il proprio percorso musicale per tutti gli anni 80, arrivando anche ai primi anni 90, continuando però in maniera sicuramente differente dalle origini del progetto degli anni 80. Formazione che si è mossa anche all'interno dell'avanguardia, la musica concreta, un'industria che poi si è contaminato soprattutto di matrici tribali, come avevo sentito in questo brano che abbiamo appena ascoltato, un brano che cerca di ritornare quasi all'origine, in questa ritmica tribale, con delle influenze poi ovviamente legate al funk, alla musica black, soprattutto in una direzione più orientata all'elettro, che andava molto negli anni 80, di quella parte della black music sperimentale che ha portato l'elettro dentro una sorta di dance intelligente degli anni 80, elaborata, che poi era legata soprattutto al contesto sociale americano degli anni 80. Formazione sicuramente importante, abbiamo ascoltato questa traccia, adesso andiamo ad ascoltarci un'altra traccia più marcatamente legata a un'idea funk, un industrial sicuramente evoluto, che ritroveremo anche negli altri progetti successivi. Continuiamo il nostro viaggio dentro Industrial and Funk, capitolo 1, dentro l'antagonismo musicale degli anni 80, Sleep Chamber, Music for Mannequins. You're waiting every night. In your darkest eyes, I find my seat is wise. You wake me in my sleeping hours like a cloud. Please carry the lantern high. Please carry the lantern high. Please carry the lantern high. Siamo ritornati in diretta, abbiamo ascoltato anche quest'altra traccia da Music for Mannequins, uscito nel 1984, Sleep Chamber. E continuando il nostro percorso nell'industrial contaminato, intersecato dalla black music e dal funk, in parte anche dall'elettro, e troveremo anche certe cose che ricordano certe forme connesse alla black music degli anni 80, un percorso chiaramente che la musica industriale, alcuni progetti dell'ambito industriale ha cercato di intersecare, tenendo conto che la musica industriale è nata come musica fondamentalmente bianca, ma ha avuto la capacità di aprirsi soprattutto in alcuni progetti, quelli che abbiamo ascoltato fino ad ora. Poi ascolteremo altre formazioni fino alla fine della trasmissione, questo primo capitolo, poi ne faremo altri per raccontare meglio questo incrocio tra musica industriale e funk, sicuramente estremamente importante, legato a questa idea di collegare tutte le tensioni, le rivolte e anche le forme di provocazione sociale connesse soprattutto al periodo anni 80, legato al thatcherismo ma anche al reaganismo, che avevano devastato quegli anni. Fa anche pensare come in questi ultimi 10-15 anni c'è stato questo revival continuativo e ancora persistente, attuale, quasi consolidato, soprattutto nell'ambito commerciale degli anni 80, ma certamente certe musiche come queste che stiamo mettendo in onda all'interno di 451 intersezioni non sono state particolarmente riportate alla luce o all'ascolto in molte radio, anche perché continuano a rimanere estremamente avanzate, urticanti, fastidiose, provocatorie, sicuramente scomode come lo sono state negli anni 80, formazioni che poi non si limitavano all'aspetto musicale sonoro, ma nelle performance live o in alcuni momenti di happening e di manifestazioni collegate soprattutto anche a tensioni sociali e manifestazioni politiche, tutto ciò non si chiudeva all'aspetto semplicemente sonoro. Formazioni che erano anche impegnate sul terreno appunto della provocazione, dell'impegno politico anche sulla scena prettamente sociale, non solo musicale. E adesso andiamo a pescare una delle formazioni più importanti, forse quelle più legate a questa contaminazione tra musica industriale e funk, e in alcuni casi anche dell'elettro, e sono i Clock DVA, formazione fondamentale nell'ambito musicale industriale, formazione nata alla fine degli anni 70, il primo album uscito è uscito per la Not On Label nel 1978, hanno proseguito il loro percorso musicale e nei primi anni 80, in particolare in questo disco Advantage, uno dei dischi più importanti del 1983, oltretutto uno dei più famosi, si sono spostati sempre di più verso appunto questa contaminazione con la musica funk e con la musica legata alla dimensione, al linguaggio più prettamente black. Produzioni che sono andate avanti fino ai primi anni 90, c'è stata una vera e propria chiusura del progetto e poi sono uscite delle cose nel 2013-2014 che cercano un po' in parte di recuperare alcuni materiali d'archivio e qualcosa anche di nuovo che hanno cercato di rielaborare i Clock DVA, ma con successi sicuramente in termini di sperimentazione, di proposta musicale molto più limitati rispetto al contesto più fulgido in termini di produzione, di ricerca e di anche genialità degli anni 80. Andiamoci subito a sentire una traccia da Advantage, uscito nel 1983, Clock DVA. Before you in a daze, he does doesn't speak a word. In the silent hypnotic trance, you feel a void open in your stomach. This is a nightmare from which you never wake. You had it coming. We'll be right back. E siamo rientrati in diretta, abbiamo mixato la storica formazione Clock DVA, anche questo progetto nato in quel di Sheffield, sicuramente influenzato da tutta l'atmosfera legata all'industria fordista inglese. E dopo il Clock DVA abbiamo mixato una formazione invece, diciamo, meno conosciuta, un po' tra virgolette minore, anche se a me personalmente non piace questo termine minore o maggiore, anche perché appunto si creano delle scale gerarchiche abbastanza alle volte opinabili. E abbiamo mixato appunto un'altra formazione, Revolving Cocks, formazione composta, diciamo, da due elementi, anzi da quattro elementi in realtà, americani e belgi, formazione industriale nata praticamente verso la metà degli anni 80, dunque in una fase, diciamo, un po' discendente nell'ambito delle produzioni dei progetti industriali, ma che ha fatto uscire sicuramente il primo album molto interessante, uscito per la Wax Trax Records, Big Sexy Land, da cui abbiamo ascoltato un estratto poc'anzi proprio in chiusura, con fortissimi legami con sia la musica elettro. Si sente molto bene l'influsso della black music, dell'electro e del funk, connessi soprattutto alla base ritmica, questa impostazione ritmica estremamente nera, dentro invece una collocazione sonora e anche, diciamo, vocale più legata alla musica bianca industriale. Splendido lavoro. Successivamente, diciamo, le cose non sono andate così bene, i dischi successivi sono stati abbastanza mediocri, fino addirittura a far uscire, dopo, diciamo, il periodo che si è chiuso, il primo periodo nel 1993, sono stati assenti dalla scena musicale per ben 13 anni e sono usciti a metà degli anni zero con altri album che sicuramente non portano avanti il discorso, almeno iniziale, del primo album interessante uscito per la Wax Trax Records nel 1986, Big Sexy Land. E ormai siamo arrivati in chiusura, perché la nostra ora ovviamente è limitata, soprattutto legata a progetti e a scenari musicali e storici così complessi, così variegati. Non a caso l'abbiamo intitolato capitolo 1, questo percorso sonoro e questi frammenti che abbiamo voluto sparpagliare stasera dentro questo calderone dell'antagonismo musicale degli anni 80 connesso alla musica industriale. E adesso, per chiudere il nostro percorso musicale, andiamo a pescare un personaggio assolutamente eclettico, assurdista e provocatorio, Foetus, progetto del personaggio James George Tyrrell, nato a Melbourne in Australia e poi ha girovagato tra Europa e Stati Uniti per portare avanti il suo progetto connesso ovviamente al panorama industriale, ma non solo, legato anche al post-punk, alla new wave e a moltissime connessioni con la musica black, in particolare col funk e con l'electro, che attraversa soprattutto i primi album. Progetti di Foetus sono stati variegati, con vari nomi, in particolare l'album che andiamo a trovare adesso, che poi in realtà è il primo album che ha fatto uscire questo artista, per la Self Immolation nel 1981, Death, in realtà il progetto si chiama You've Got Foetus on Your Breath, dunque ogni volta il personaggio Foetus cambiava nome, cambiava diciamo progettazione per proporre i suoi album, produzioni anche molto intense fino ai primi anni 90. Poi si è fermato anche lui, è ritornato soprattutto per la First Year negli anni zero, portando avanti fino al 2013 con l'ultimo lavoro Soak, uscito per l'Ectopic Ends. Comunque i lavori più interessanti, quelli più connessi alla trasmissione di stasera legata agli anni 80, sono sicuramente i primi album, in particolare Death, Ache e All, usciti proprio tra il 1981 e il 1984. Andiamoci dunque a ascoltare questo splendido lavoro, una vera e propria spinta adrenalinica e anche abbastanza distruttiva, combattiva, tipica di Foetus e tipica anche di una certa scena industriale che indubbiamente portava avanti un discorso anche di rivolta e di provocazione, connessa anche a una forma di forte combattività e energia espressa attraverso le linee sonore che attraversavano anche quelle tensioni e quegli anni 80 che per molto tempo non ci hanno voluto raccontare e diciamo anche rivisitare rispetto all'aspetto antagonista che era molto presente non solo nella terra madre, cioè la Gran Bretagna, ma anche in tutta Europa e negli Stati Uniti, contro appunto il fenomeno thatcherista e reaganiano. Ci andiamo a sentire dunque questo splendido brano da Death the Fetus 1981. Io vi lascio con questo brano e vi aspetto per lunedì prossimo sempre dalle 20 alle 21, 451 intersezioni. Buona serata con la continuazione dei programmi di Radio Città Fujiko. Ciao. bottom by my back, and I hope they might help brighten up your day. Cause they do mine.